Cari amiche e cari amici, benvenuti a Radio Alma Bruxellando e come annunciato questo è uno speciale di Bruxellando e siamo molto contenti perché intervistiamo Vincenzo Balsamo, che è un pittore che tanto ha dato anche all'arte non solo italiana ma anche europea. Allora Vincenzo, noi saremmo curiosi di sapere, già che ormai è nel mondo dell'arte da tanti anni, come è avvenuto il suo incontro con l'arte? Ah, guarda, il mio incontro non è molto difficile, cioè da ragazzo io persi papà e mamma mi cercò un lavoro e trova un imbianchino che poi era un decoratore. Questo decoratore un giorno mi ha portato in una chiesa dove stava restaurando un affresco. È stata talmente la passione che io già a 12 anni gli rubavo i colori per farmi i quadri a casa. Un giorno mamma ha trovato questa persona e gli ha detto: ma perché gli fai fare questi quadri? Dice: perché prende le cartoline di casa e fa i quadri. Ma non lo sapeva nemmeno. Certo. Allora mi ha cominciato a far studiare la pittura, l'arte, mi ha fatto capire certe cose. Poi a un certo momento eravamo 7 figlie senza papà, una zia che c'era a Roma, dice: guarda, mi porto via uno. Dico: fammi venire a me perché io voglio studiare la pittura. Difatti poi ho fatto quasi 3 anni alla scuola d'arte San Giacomo, perché il giorno lavoravo perché devi vivere. Certo. E così è cominciata la mia avventura, ma già a 17 anni vivevo con la pittura. Quindi è una passione che l'accompagna da tutta una vita? Sì, da tutta la vita veramente. Ho detto, avevo 11 anni quando ho visto dipingere per la prima volta, per me è stato come vedere un miracolo, no? Dico: che fa questo? Fai miracoli. Sua madre però aveva fiducia in lei perché l'ha fatto praticamente partire, è andato poi a Roma. Sì, beh, perché eravamo 7 figli e in un certo momento uno doveva andare via e allora io, passione della pittura, un po' perché volevo studiarla, con questa zia mi ha portato a Roma e sono stato poi tutta la vita a Roma, insomma, ecco, vissuto romano di Roma, come si dice. Mm-hmm. Durante la sua carriera artistica ha attraversato trasversalmente diverse e differenti ideologie, sperimentando varie metodologie comunicative. Cosa l'ha spinta e guidata attraverso questa evoluzione stilistico-concettuale e in che modo queste fasi hanno influito o riflesso sugli avvenimenti della sua vita quotidiana? Ma vedi, c'è un fatto molto importante, perché poi si incontrano le persone giuste o quelle sbagliate, diciamo, no? Io ho incontrato un poeta che era Alfonso Gatto negli anni 60 e lui, gli piacevano questi miei paesaggi, nature morte che facevo, però mi diceva sempre: tu devi vedere i grandi pittori, cioè sì, i paesaggi, le cose, però devi migliorarti, devi andare avanti. E io sinceramente non avevo una cultura così enorme già a 20 anni. Un giorno siamo andati io con un signore che aveva, un giornalista, aveva una rivista d'arte chiamata Il Poliedro, che era uscita negli anni 60. Siamo andati a Parigi a trovare Artun. A un certo momento Alfonso Gatto mi fa, dice: andiamo Vincenzo, andiamo al Louvre a vedere il Louvre. Gli dico, quando siamo a Louvre, ma lui si fermava più nell'arte moderna. Mi diceva: vedi, questo è Miró. E io non sapevo neanche chi era Miró, chi era Picasso. Ma per anni abbiamo fatto questo con Alfonso Gatto, fino a che mi ha fatto capire che ha cominciato. Ecco, uno dei pittori che visitavamo era Magnelli, che era un astratto concreto, non uno dei grandi dell'astrazione. Io mi sono innamorato di queste cose, ho cominciato a fare queste cose. Poi piano piano c'è stata un'evoluzione, ma io ho cominciato a studiare proprio la pittura. C'è stato un momento che, dopo il figurativo, già facevo l'astratto, c'è stato un momento che ho detto: basta, voglio fare, ho fatto delle sperimentazioni, e quelle che poi gli ho fatto vedere, che sono nate le decomposizioni, le nebulose, le evocazioni, per poi ritornare, perché poi in queste cose c'è anche il trucco che a me non piace. Io sono un pittore, proprio un pittore che mi piace dipingere ancora con l'olio, e allora sono ritornato all'astrazione, ma un'astrazione diversa, già più concreta, più, e cercavo sempre qualcosa che... Un giorno sono andato a vedere una mostra di Segantini e dei divisionisti e sono rimasto talmente impressionato da questa tecnica che io sono rimasto... Non lo conoscevo, sì, storia dell'arte, però arrivi ai moderni, ma essendo fra l'Ottocento e il Novecento, sono rimasto. Poi vedo che una parte c'erano i futuristi che avevano preso tecnicamente questa tecnica. Io ho fatto una ricerca, nessun altro dopo ha fatto questa ricerca, diciamo, di ritornare a fare il divisionismo, però io facevo un'altra strada e ho fatto, ma quasi per un anno, sperimentazione, fino a che un giorno ho capito che era il mio intimo, il mio, quello che sentivo più di fare, perché poi ho portato l'astratto in un modernismo che, a vederlo, insomma, a lei gli piace, è molto bello, no? Perciò è astratto lirico chiamato, e io sono arrivato a quello, all'astratto lirico. Ho una curiosità, lei ha detto che questa forma d'arte l'aveva veramente impressionato, incuriosito. Quali erano gli elementi che la incuriosivano particolarmente? Era la tecnica, l'associazione dei colori oppure la sfida di poter riprodurre quella tecnica che lei ancora non conosceva? Ma non è tanto una tecnica, vede, il divisionismo era un po' tutto puntuleggiato. Io ho dovuto cercare una tecnica che sia mia, cioè è mia. Cioè creare un fondale, creare che si muove, che si sente, no? Per poi cominciare a dipingerlo sopra. Cioè è una tecnica che non tutti possono fare o hanno fatto, cioè è una mia tecnica. Io poi, ancora adesso, se lei vede, non c'è un quadro uguale all'altro, perché ci sono pittori che hanno preso a simbolo 3-4 immagini, come per dire Capogrossi, c'è un pittore veneziano Licata che se ormai ha fissato 10 elementi, li sta sviscerando da 30 anni. Io non so, non riesco a dare la stessa immagine a un altro quadro, cioè lo stesso disegno, lo stesso. Io non ci riesco. Per me un quadro è un quadro. Devo fare un quadro, non devo fare la copia della copia dell'altro quadro, capito? Certo, sì, sì, sì. E il fatto che non ha assunto comunque uno stile in particolare, ma tende sempre a cambiare, è una sua esigenza anche intellettuale oppure è più legata al sentimento del momento? Ma non è un fatto di... lo stile è già mio, perché ripetevo, giudico, gli ho detto, se lei mette 100 quadri, il mio quadro si vede fra 100 pittori. È un fatto di personalità. Trovare la personalità oggi è molto difficile, distaccarsi da tutto quello, non sappiamo quello. Se lei pensa che in Italia ci sono 30.000 pittori. 30.000? Sì, parlo di 30.000, fra quelli della domenica, il farmacista, l'impiegato che fa il pittore, si parla di 30.000 pittori, ma i veri professionisti, quelli che hanno veramente arte, che fanno arte, saranno un migliaio, ecco, perciò pensi che disparità che c'è fra l'uno e l'altro. Passiamo invece all'astrazione lirica di cui pure parlava poc'anzi. L'ha definito in un'altra intervista come uno dei suoi momenti più importanti della sua pittura e della sua personalità artistica. Certo. Allora, siccome probabilmente non tutto il nostro pubblico, il pubblico di Brussellando, la conosce, potrebbe aggiungere qualche elemento in più a questa definizione? Aggiungo una definizione, cioè, come posso spiegare? Perché è peculiare l'astratto. Io facevo già dell'astratto, è particolare, no? Io facevo già dell'astratto, per dire, se lei guarda un quadro degli anni 70, ecco, per dire, guarda, ecco questo, no? Sono astratti, però non c'è la tecnica del divisionismo, perché ancora non l'avevo scoperta, capita, è sviscerata. Allora, quando si passa, ecco, questo è come se io facessi oggi un quadro così, ma devo farlo con la mia tecnica, che è mia, che ho scoperto e che mi sono per anni maturato dentro, perciò è anche una visione. Tenga presente anche il fatto del colore, no? Io vengo da una scuola che è la poesia, la scuola romana, che tonalismo e poesia, perciò io non sono uno che prende i colori, no, devono essere tonali, ci deve essere un accostamento di toni che non devono essere che sparano, come si vuol dirsi, no? Il tono deve essere tono su tono, ecco, basta guardare i quadri, insomma. E allora abbiamo ancora un'altra curiosità. Sì. E visto che è stato sempre alla ricerca di questa personalità, ci sono state delle figure oppure delle personalità che hanno influito sul suo modo di fare pittura? No, in questo momento dell'astrazione lirica no, perché, come ripeto, io ho visitato una mostra molto importante di Secantini e di tutti i divisionisti, è stato per me un amore vederli e capirli e poi cercare di farlo, è una tecnica che non fa più nessuno, ecco. E questo è il mio mondo, è il mio modo di vedere, invece è poesia, è intimismo, ci sono tanti modi di fare la pittura, no? Io ci sono quadri che se le vedi sembra che sono solo di un colore, però se guarda dentro ci sono 100 colori. Io di fatto sto andando verso quello che, come si può definire, il monocromo visitato dal pensiero, dal segno. Ecco, io sto arrivando a quello, ci sono quasi arrivato, perché ci sono quadri giù, quelli rossi, che, guarda, questi sono monocromi visitati. Sì. E arrivare a questo ci vogliono anni per capire che, qua, questo è uno di quei quadri che... Uh-huh. Ecco, quando sei arrivato a questo, sei arrivato, non può andare oltre, dove vai? Certo. Ed è l'intimismo più puro di un pittore che può fare, più di questo può fare. Quanto tempo impiega per... Ci sono quadri che io, per dire, un quadro grande come quello che ha visto questo, per dire, ci sono anche 6-7 mesi di lavoro, che li porti dietro anche per un anno. Io c'è un quadro grande che io è pubblicato in libri di Mantova, un quadro di 3 metri per 2 che ci ho messo un anno. Un anno, teniamo su un balcone lì ogni tanto 3 ore, 4 ore, 3 giornate, però per un anno è stato lì, fino a che non l'ho finito. E dove le piace dipingere? A un luogo in particolare oppure? No, io sono stato un po' dappertutto, a Parigi, poi sono stato a Treviso, poi mi sono fermato a Verona, che avevo uno studio a casa proprio vicino all'arena, ci sono stato 10 anni. Adesso vivo vicino a Viterbo, in un paesino che mi piace più la campagna, stare solo, in solitudine. C'è un grande studio e dove lavoro quasi 12 ore al giorno. Allora, complimenti, mi sembra essere un ottimo ritmo. Avevo letto di lei mentre venivo qui in Monte Paschi, che ha avuto comunque modo di incontrare tante personalità del mondo artistico, tra cui Pablo Picasso. Ma che ricordo conserva? Ma un ricordo molto bello, per cui a me mi portò un critico d'arte, André Verdet, di Saint Paul de Vence. In quei momenti bazzicavo un po' la Francia. E un giorno mi disse: andiamo, che c'è a Valory, dove lui faceva le ceramiche. Dico: sai, mi piacerebbe avere una ceramica, un vaso di Picasso. Dice: andiamo, ci andiamo. E ci siamo andati. Picasso stava lavorando, io volevo che me lo presentavano. E quello che faceva il capo delle ceramiche disse: no, non lo disturbate, perché è molto irascibile su queste cose. Difatti io ho comprato 2 vasi, 2 piatti e me li sono portati via. Ci siamo fatti un saluto da lontano. Conoscere Picasso lo credo. È un po', no, ho conosciuto tanti, per dire, nel periodo che io bazzicavo Milano, che andavo spesso a Milano, ho conosciuto quasi tutti, da Marino Marini, Cantatore, Mieco, Usellini, tutti i pittori della scuola milanese, Mieco, Coguttuso, l'ho conosciuti tutti, Afro, ho conosciuto Virolo, sarebbe troppo lungo, perché è tutta una vita che cerco, sto sempre in mezzo ai pittori, quando c'è una riunione, una cosa, siamo sempre lì. Lei ha dedicato all'arte praticamente tutta la sua vita, perché sono, penso, 60 anni che si dedica a questa professione. Sono più di 60 quasi, sì. Calcolo, ho 78 anni, l'ho compiuto il mese scorso. Complimenti. E se dovesse darci una sua definizione dell'arte dopo tanti anni e anche alla luce di quello che ci ha raccontato, che cosa ci direbbe? Questo è un tasto che è molto sensibile a toccarlo, guardi, veramente, mi creda, oggi nell'arte c'è un qualcosa che non funziona, ci sono pittori che non valgono veramente quello che pensano di valere, c'è tanta cioè oggi un pittore deve avere il mecenate dietro, se non c'è il mecenate non si fa niente. Io ho visto dei pittori in Italia che adesso hanno mecenate che costano delle cifre enormi. Oggi la pittura non è più quella che era 20, 30, 40 anni fa, quando nasceva Burri, quando nasceva Fontana. Oggi queste cose non avvengono più. Non so perché, perché c'è un modo commerciale di fare l'arte. Oggi se noi pensiamo a Andy Warhol, no? Che arriva a 40-50 milioni di dollari, ma veramente riflettiamo un attimo, questo non ha mai dipinto, ha fatto sempre le serigrafie. Poi Bonino Oliva dice che è il più grande pittore che è esistito, ma vabbè, io, per carità, un giudizio di Bonito Oliva, no. Però mi sembra assurdo che tutto, posso capire Pollock che arriva, è stato il primo a fare la pittura che ha fatto, non capisco Andy Warhol, non capisco altri pittori, no? Non li capisco. Per me è tutto mecenate, tutto un commercio. Allora, noi siamo qui a Bruxelles, che è anche capitale delle istituzioni europee, siamo molto ascoltati anche nell'ambiente istituzionale comunitario, e vorrebbe indirizzare non magari un messaggio ma un auspicio a quanti ancora regolamentano sull'arte o comunque favoriscono o defavoriscono in un modo o in un altro quello che è proprio la cultura e l'arte poi nello specifico. Il fatto che le istituzioni non si interessano di queste cose, mia cara, perché veramente noi dovremmo essere soggetti a certe situazioni, no? Invece dobbiamo fare tutto con il nostro lavoro e con le nostre forze. E non è possibile, perché oggi veramente, guardi, io ho speso una fortuna per fare 3-4 mostre, ma sono contento di averlo fatto, anche se poi alla fine non si sa come va a finire. E invece i giovani che amano l'arte, i giovani pittori, diciamo, non parliamo ancora di persone affermate, coloro i quali vogliono invece intraprendere questa professione? Oggi è una professione molto molto difficile, veramente, anche i giovani penso che troveranno un percorso veramente difficile che può fare dell'arte, salvo che non hanno delle possibilità proprie da spendere, da fare, perché oggi è un mestiere anche oggi da ricchi. Se lei pensa che oggi comprare un colore ad olio, per dire un colore, oggi costa già dai 30, 40, 50. Io lavoro con dei pennelli che sono solo di martora, che un pennello 10, per dire, costa già 130 euro. Perciò diventa un mestiere, non parliamo poi di avere il cavalletto, di avere tutti i colori, di avere i pennelli, di avere tutte le essenze che ci vogliono per fare. È diventato un mestiere da ricchi. E allora come fa un giovane a poter, salvo che la famiglia non l'aiuta, sono tanti fattori, insomma. Ecco. Quindi comunque alla base credo non solo ci voglia tanta passione, ma soprattutto veramente forza di volontà che va anche al di là della passione stessa. I nostri tempi era molto diverso, io facevo i sacrifici per comprarmi la prima cassetta di colori, andavo a fare l'imbianchino, sinceramente, per comprarmi, perché la passione mi mangiava dentro, volevo dipingere, e allora dopo un anno mi sono potuto comprare la prima cassetta di colori. I sacrifici sono quelli, se hai la passione, se non ce l'hai fai oggi del modernismo, fai dell'astratto, ma che fai? Se non hai una base, oggi un pittore, un artista, non so se potrà arrivare a fare. Certo, ci so che è fortunato che riesce subito avendo conoscenze importanti, ma è molto difficile. Allora, noi ringraziamo Vincenzo Balsamo che questa sera poi inaugura proprio con un suo vernissage la sua mostra qui alla Monte dei Paschi di Bruxelles, e sarà in esposizione per qualche settimana, quindi fino al 3 settembre, quindi invitiamo tutti coloro i quali sono all'ascolto, coloro i quali ascolteranno in podcasting questa puntata, di recarsi quindi in Rue Joseph D qui presso la sede della Monte dei Paschi, dove potrete ammirare ed acquistare anche surplus uno dei bellissimi quadri di Vincenzo. Vincenzo, noi la ringraziamo per essere stato con noi e le auguriamo tutto il meglio, e magari chissà ritornerà nuovamente anche qui a Bruxelles. Ringrazio io tutti voi, veramente ringrazio di cuore, e spero di vedervi presto. E noi altrettanto.